Il punto di Stefano Folli. Due osservazioni sulla Lombardia. La prima, è sempre più evidente che i leghisti di Maroni, per fare l'alleanza con il Popolo della Libertà e portare il loro segretario alla presidenza della regione, hanno dovuto accettare ciò che dicevano di rifiutare, cioè il primato pieno di Berlusconi. La mancata indicazione del Premier è ormai una foglia di fico che non nasconde la realtà. Berlusconi è a tutti gli effetti il capo dell'alleanza. La Lega è stata pressoché inglobata e il sogno dell'identità autonoma è parecchio appannato. La seconda, Albertini non sta facendo una bella figura con le allusioni e le insinuazioni su Formigoni. Niente di penale, ha precisato l'ex sindaco, ma a quanto pare si tratterebbe invece di una questione politica rilevante e allora sarebbe opportuno che il candidato dei centristi si pronunciasse chiaramente, per rispetto verso se stesso e la sua storia personale, ma soprattutto verso gli elettori. Il metodo delle mezze parole non aiuta lui e tantomeno la qualità di una campagna elettorale che lascia molto a desiderare.